Giornate, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Jobs Act era stato presentato come l'annullamento dell'articolo 18, si pensava che si potessero avere delle nuove assunzioni miracolose, come al solito è stata annunciata una cosa, diciamo così, di destra, e invece si è ritornati su una formula che non porterà un solo nuovo assunto. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il Berlusconi pensiero sul Jobs Act, quindi Renzi non ha soltanto contro i sindacati, particolarmente in questo momento, in questo periodo, ma anche Berlusconi, che dovrebbe fare parte, essere l'altro socio, diciamo, del patto del Nazareno, lo attacca su questo. Ci sarà forse odore di campagna elettorale, anche perché domenica si vota per le regionali in Emilia Romagna, in Calabria, chi lo sa, insomma, lascio a voi l'interpretazione. Di questo in parte parleremo soprattutto questa sera del caso Eternit. Ieri ne abbiamo parlato in diretta, quando proprio era arrivato in quel momento, intorno alle 21:15, la sentenza, e ne abbiamo parlato diffusamente. Poi è scoppiato il caso prescrizione, perché sembra che tutto sia dovuto l'archiviare, insomma, alla fine di questo processo, per una questione di prescrizione. E oggi sia Renzi che Grasso e molti altri, insomma, si sono espressi per una revisione di questo istituto giuridico. E anzi, il governo ha annunciato ci sarà un disegno di legge alle Camere già la settimana prossima. Vedete come è accelerato, alla fine sembrava tutto perduto, ieri invece sembra che le cose possano riprendere. Voi vi eravate molto indignati su questa sentenza e sulla prescrizione in particolare, per il motivo che era questo. Anche se poi c'è un'interpretazione, una spiegazione particolare di cui parleremo dopo, che ha dato oggi la Cassazione. Quindi potete continuare con le vostre opinioni, lo sapete, attraverso due canali, o la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, alla quale potete anche naturalmente aderire, e poi il numero per i messaggi SMS, che è il 349-238-6666. Ma come sempre, adesso prima vi riassumo la giornata. Eternit, la Cassazione spiega, la sentenza non era sui morti. Chiusa l'inchiesta bis a Torino, Renzi e Grasso chiedono di rivedere la prescrizione. Jobs Act, Camusso contro Renzi, Berlusconi dice non porterà un solo posto di lavoro in più. Il caso De Magistris, il sindaco di Napoli resta in carica, respinti gli appelli contro il TAR presentati da governo e associazioni. Parma, scontri polizia, centri sociali nella città emiliana durante la visita di Renzi. L'appello del Papa alla FAO, bisogna proteggere Madre Terra o non perdonerà il mercato. Le speculazioni non devono ostacolare la lotta alla fame. Per lo sport, la Ferrari dà l'addio ad Alonso, arriva il tedesco Vettel, e l'ex marciatore azzurro Schwarzer, dopo il lungo interrogatorio oggi alla procura antidoping, dichiara: ho chiarito tutto, mi alleno per Rio. Partiamo quindi dalla sentenza della Cassazione sul processo Eternit, che ha fatto scattare appunto moltissime reazioni, ed è stata intanto chiusa l'inchiesta bis per omicidio volontario. Cadale Monferrato, città simbolo della tragedia dell'amianto, scende in piazza il giorno dopo la sentenza della Cassazione, che ha annullato la condanna a 18 anni a carico di Cimidani e ai vertici della Eternit, e ha definito prescritto il reato di disastro ambientale. Si chiude così senza responsabili una vicenda giudiziaria iniziata nel 2009 con il primo maxi processo di Torino. Il sindaco di Casale, Titti Palazzetti, dichiara il lutto cittadino, i negozi tengono le saracinesche chiuse, proprio mentre a Roma il presidente del Consiglio Matteo Renzi apre alla necessità di modifica delle regole sulla prescrizione dei reati. Si deve cambiare, dice Renzi, perché la domanda di giustizia non viene meno. Sono colpito dalla dignità dei familiari delle vittime, aggiunge Renzi, e dal loro senso di giustizia. E intanto si apre un nuovo fronte giudiziario. La Procura di Torino, come conferma il sostituto procuratore Raffaele Guariniello, ha chiuso le indagini nell'ambito dell'inchiesta Eternit bis. Oltre 250 morti per mesotelioma dal 1989 ad oggi. Il reato ipotizzato in questo caso è quello di omicidio volontario, si cambia dunque strada. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. La sentenza ha anche provocato, diciamo, molte polemiche sull'istituto giuridico appunto della prescrizione, e dall'Associazione Nazionale Magistrati al governo si sono espressi un po' tutti nell'essere d'accordo per cambiare i termini della prescrizione, e di questo parleremo, mi dicevo, tra poco a Effetto Notte con un esponente del governo e con un esponente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Intanto sul Jobs Act resta ancora alto lo scontro tra la leader della CGIL Camusso e Renzi. I sindacati non nascondono la loro irritazione dopo il nuovo affondo di Renzi. Loro si inventano scioperi, io creo lavoro, aveva detto in mattinata il Premier, immediata la replica del segretario generale della CGIL, Camusso. Penso che il problema che ormai è sempre più evidente al Presidente del Consiglio è che lui dialoga solo con chi gli dà ragione e non si pone invece il problema che se i lavoratori hanno riempito la piazza il 25 ottobre a Roma e se continua la mobilitazione, forse bisognerebbe ascoltare le ragioni di quel disagio del mondo del lavoro e dalle risposte positive. Critico nei confronti del Premier anche il neo segretario generale della UIL Barbagallo, dal quale arriva comunque un'apertura sullo sciopero generale proclamato assieme alla CGIL. Abbiamo chiesto di modificare la legge di stabilità, abbiamo chiesto di verificare quello che ci dovrà essere scritto nella legge delega sul mercato del lavoro e non abbiamo motivazione, che dobbiamo inventare. Se il governo si siede e ci dà delle risposte, c'è sempre tempo fino a quando sarà il momento di revocare lo sciopero. Invito a Renzi ad essere più preciso quando parla di sindacati arriva invece dalla numero uno della CISL, Furlan, che difende le ragioni dello sciopero del pubblico impiego proclamato dal suo sindacato e anche la decisione di non aderire invece alla protesta di CGIL e UIL. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E Berlusconi, come dicevo all'inizio, come avete sentito, ha commentato così il Jobs Act a studio aperto al TG4. Il Jobs Act era stato presentato come l'annullamento dell'articolo 18, si pensava che si potessero avere delle nuove assunzioni miracolose, come al solito è stata annunciata una cosa, diciamo così, di destra, e invece si è ritornati su una formula che non porterà un solo nuovo assunto. E ha anche detto: credo che tutti abbiamo dentro il sentimento che siamo in una situazione di non democrazia, se poi pensiamo che il terzo governo non eletto si sostiene su una maggioranza risicatissima, creata quasi artificialmente, dice Berlusconi, non può andare avanti ancora per molto e dice che tornerà presto in campo. Passiamo al caso De Magistris, sono stati respinti dal Consiglio di Stato i ricorsi del governo e di due associazioni contro la decisione del TAR Campania sul caso De Magistris. Per l'appunto il sindaco di Napoli resta per ora in carica, viene infatti confermata la sospensiva del TAR, che ha bloccato gli effetti della delibera in cui il prefetto lo aveva sospeso da sindaco per la legge Severino. Occupiamoci adesso di economia e finanza. Ancora una volta il presidente della Banca Centrale Europea Draghi raddrizza parzialmente con le sue parole la giornata storta delle borse europee penalizzate dai fiacchi dati economici. Nel giorno in cui il presidente della BCE Mario Draghi rinnova l'impegno a proteggere l'euro, i dati economici continuano a far segnare una tendenza alla stagnazione nell'eurozona. Siamo determinati a proteggere la moneta unica, dice Draghi nella cerimonia di inaugurazione del meccanismo di vigilanza unico che eserciterà la supervisione sui principali istituti di credito della zona euro. Per Draghi occorre guardare avanti e prepararsi agli sviluppi futuri verso una vera unione economica e monetaria. Le parole del presidente BCE hanno contribuito a risollevare parzialmente le borse, in particolare Piazza Affari, in difficoltà dopo i dati di novembre dell'indice PMI composito dell'eurozona, che monitora l'attività manifatturiera e dei servizi, sceso a quota 51,4 da 52,1 di ottobre. Si tratta del livello più basso da 16 mesi, di poco superiore a quota 50, la soglia che segna il punto di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo. Quella quota 50 dove è invece sceso l'indice PMI manifatturiero tedesco. Problemi anche in Italia, dove l'Istat indica un calo degli ordinativi dell'industria a settembre e infine, tornando all'eurozona, continua a scendere la fiducia dei consumatori. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche di Rai, perché il governo lavora un intervento sul canone RAI da inserire nella legge di stabilità. Lo conferma il viceministro dell'economia Enrico Morando, spiegando che l'intervento potrebbe arrivare al Senato e si potrebbe legare a quello sulle emittenti locali, per le quali l'intenzione è di risolvere il problema in modo strutturale. Resta alta la tensione intanto a Viale Mazzini, dopo che il consiglio di amministrazione di ieri, il consigliere Verro attacca il direttore generale Gubitosi, che ne aveva chiesto le dimissioni, dice si dimetta lui se non vuole attuare la delibera, e la consigliera Luisa Todini da parte sua dice mi sono dimessa perché mi si chiede di fare ricorso contro il mio azionista, cioè il governo, e per una questione di immoralità che lascio la consigliatura RAI. Quella del CDA dice una decisione irresponsabile che io non accetto. E ricorre oggi il 25esimo della giornata mondiale dell'ONU per i diritti dell'infanzia. Solo pochi giorni fa le associazioni che si occupano di minori stranieri hanno lanciato, di stranieri soli, hanno lanciato l'allarme sulle continue scomparse di questi bambini dalle case famiglia. Nel 2014 ne sono sbarcati 12.000 in fuga da povertà e guerre, ma una volta nelle case famiglia ben 3.000 sono spariti. Allora sentiamo il portavoce UNICEF Italia, Andrea Iacomini, intervistato da Valentina Furlanetto. So che purtroppo, perché ho visitato alcuni centri, i bambini lasciano i centri di accoglienza dove spesso non ricevono le giuste attenzioni per essere vittime di racket, di violenza. Qualcuno purtroppo viene utilizzato per nel commercio della droga, qualcuno sparisce e non si hanno più tracce. Sicuramente ci sono anche delle sacche di lavoro minorile che vanno considerate dentro questo contesto. Tutto sommato magari fosse quello. Ecco, purtroppo sì, in un quadro di questo tipo, dove questi ragazzi vengono esposti a qualsiasi tipo di pericolo, non ultimo quello che quando fuggono e lasciano un centro anche per disperazione non si sa che fine fanno. E siamo alla cronaca. A Roma due bambini di 1 e 4 anni sono rimasti feriti insieme alla madre nell'esplosione di una villetta a Palombara Sabina, in provincia appunto di Roma. Secondo i pompieri una fuga di gas è la probabile causa dello scoppio che ha distrutto la casa. E poi un incidente sul lavoro: due uomini hanno perso la vita mentre stavano lavorando schiacciati da una pianta. È accaduto in questo pomeriggio a Villa Stringa, nel Cremonese. I due, entrambi addetti alla manutenzione del verde, sono stati travolti, avevano 69 anni e 67 anni. Sul posto sono giunti soccorsi che si sono rivelati inutili. Per chiudere, lo sport: alla Ferrari è ufficiale, arriva il tedesco Vettel e dice addio lo spagnolo Alonso, e di questo poi ne parleremo più tardi. E l'ex marciatore azzurro Alex Schwarzer, al termine dell'interrogatorio di quasi 6 ore alla procura antidoping del CONI, ha detto: penso di aver chiarito tutto, io mi sto allenando per essere pronto al rientro per le Olimpiadi di Rio de Janeiro. E direi con questo che il riassunto della giornata è concluso. Adesso dopo la viabilità cominceremo a toccare diversi argomenti, in particolare ritorneremo sulla vicenda dell'Eternite di ieri, che abbiamo seguito proprio in presa diretta. Stasera ci saranno un esponente del governo e un esponente dell'Associazione Nazionale Magistrati che dovremo raggiungere a momenti. Intanto c'è sempre la possibilità per voi di esprimere le vostre opinioni o al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ora ve le riassumo di nuovo brevemente le notizie, poi passiamo subito ad affrontare l'argomento principale di questa sera. Rabbia dopo la sentenza Eternit, scoppia il caso prescrizione, chiusa l'inchiesta bis a Torino, i PM contestano 263 omicidi volontari. Lite tra Renzi e sindacati sugli scioperi, lui dice inventano gli scioperi, io creo lavoro. Il Presidente del Consiglio poi oggi stasera a Parma, scontri tra i centri sociali e la polizia nella città emiliana. Nessun sogno troppo grande, Renzi lancia anche Roma 2024 per le Olimpiadi, è già scontro però con Salvini che dice Olimpiadi è pericoloso, già siamo indebitati. E poi il Papa alla FAO, bisogna proteggere Madre Terra, dice, o non perdonerà, e mercato e speculazioni non devono ostacolare la lotta alla fame. Il Consiglio di Stato su Napoli, De Magistris resta sindaco, sono stati respinti i ricorsi presentati da governo e associazioni. E poi addio Mike Nichols, il regista che vinse l'Oscar con Il Laureato, si è andato a 83 anni, e la Ferrari cambia marcia, addio Alonso, arriva Vettel. E adesso allora parliamo del processo Eternit, che ieri abbiamo affrontato praticamente in presa diretta. Mentre arrivava la sentenza, vi volevo far sentire ieri la telefonata che avevo fatto poco prima con il presidente, con il coordinatore dell'Associazione Familiari delle Vittime, e poi è arrivata la sentenza proprio in diretta della Cassazione, che ha annullato la sentenza di condanna per il magnate svizzero proprietario appunto di Eternit. Ma vorrei sentire su questo e sulla polemica che è scoppiata sulla prescrizione Maurizio Carbone, segretario generale dell'ANM. Buonasera Carbone. Buonasera. Quindi ha sentito, anzi lo vorrei far sentire, Renzi che cosa ha detto oggi di molto importante, che ha suscitato anche l'entusiasmo di Guariniello, che è il PM che si è occupato a lungo e continua a occuparsi del processo Eternit. Ho quella vicenda non è una vicenda che produce un, non è una vicenda di reato, non è un reato, o se è un reato ma è prescritto, bisogna cambiare le regole del gioco sulla prescrizione, perché non è possibile che si possano in alcune vicende avere delle regole che con il tempo fanno saltare la domanda di giustizia. Da Presidente del Consiglio dico che noi dobbiamo far sì che i processi siano più veloci. Ecco, vi ricordo, la Cassazione ha annullato ieri senza rinvio, dichiarando prescritto il reato, la sentenza di condanna a 18 anni per disastro doloso per il magnate svizzero Schmidheiny nel processo, nel maxi processo Ethernet, considerato il processo del secolo. Sono stati annullati anche i risarcimenti per le vittime, si parla, per i familiari delle vittime naturalmente, si parla di oltre 2000 morti e di altri che ancora arriveranno, perché proprio ieri abbiamo raggiunto in impresa diretta, vi dicevo, un esponente dell'associazione familiari delle vittime, che è responsabile legale di questa associazione, Paolo Lidl, che aveva appreso della sentenza proprio qui da Effetto Notte, perché si era dovuto allontanare dal Tribunale di Roma per questioni personali. Sentiamolo. Direi che ogni commento è superfluo, nel senso che è una cosa assolutamente sconvolgente, francamente del tutto inaspettata. Io tra l'altro l'ho scoperto da voi, nel senso che mi sono purtroppo dovuto allontanare da Roma, ma avevo già sentito la richiesta, ma fino all'ultimo non volevo credere che si sarebbe seguita questa strada, perché è una scelta assolutamente demenziale di fronte a una storia così, che vede persone che ancora oggi muoiono al ritmo di 50-60 all'anno. Dire che tutto questo è prescritto, quando in realtà sappiamo che l'apice non è ancora arrivato e sarà solo tra 15 anni, è una cosa paradossale, assurda, e che ci fa fare davvero una brutta figura agli occhi del mondo. Ricominceremo fin da subito a lottare, peraltro so che insomma la procura di Torino stava già pensando a un Ethernet bis, per cui c'era già stato un avviso di conclusione delle indagini, e se il motivo è la prescrizione, allora si farà un altro processo in cui questa volta verranno contestati gli omicidi, almeno quelli si spera, non ci sarà un discorso di prescrizione, perché ovviamente si consumano nel momento in cui si verifica la morte, e a quel punto vedremo se finalmente in questo paese si può avere un minimo di giustizia. E infatti anticipava questa cosa Paolo Lidl, che la procura di Torino ha chiuso proprio oggi l'indagine bis su oltre 200 morti. Guariniello ha detto: non demordiamo, il reato c'è, non c'è niente da confutare. Però ieri sembrava appunto tutto perduto, invece oggi è chiusa l'inchiesta bis. Renzi, avete sentito come si è espresso sulla necessità di rivedere l'istituto giuridico della prescrizione, e così anche il presidente del Senato Grasso. Sentiamo. Io non ho letto la sentenza, quindi non posso chiaramente commentarla, però una cosa è certa: c'è una legge sulla prescrizione che è sbagliata e che va cambiata. È stata per me una buona notizia sentire che tutti la vogliono cambiare, anche perché io lo ripeto da almeno 15 anni, da quando espletavo le mie funzioni di magistrato. E invece in risposta di questo c'è stata una legge che ha accorciato i termini di prescrizione, come l'ex Cirielli del 2005. E quindi io spero che la politica non abbia l'atteggiamento del coccodrillo che poi piange per quello che ha fatto o per quello che non riesce a fare. Ecco, avete sentito, adesso ne parliamo con Maurizio Carbone, poi dopo passeremo anche a una spiegazione abbastanza inaspettata che ha dato oggi la Cassazione sulla sentenza di ieri. Intanto Carbone, però, appunto, parliamo della prescrizione, che sembra in questo processo complice dell'amianto, quindi. Ma guardi, una vicenda così drammatica come il processo Ethernet ha riaperto, pare finalmente, gli occhi anche alla politica sulla questione prescrizione. Noi magistrati, lo ricordava bene il Presidente del Senato Grasso, in realtà è da decenni che poniamo la prescrizione come una delle questioni prioritarie per riformare la giustizia. La situazione si è aggravata con la legge ex Cirielli, che ha ulteriormente dimezzato i termini di prescrizione. E ormai noi magistrati dal 2005, soprattutto per certe tipologie di reato, in particolare per i reati in materia di pubblica amministrazione, siamo costretti a fare una vera e propria corsa contro il tempo, è una corsa che spesso sappiamo essere persa in partenza perché il regime attuale della prescrizione non consente di arrivare a un accertamento processuale, a un accertamento di una verità, di una risposta di giustizia, e questo chiaramente è una sconfitta per tutti, non solo in casi così drammatici come evidentemente la vicenda Eternit, ma in tutti i processi. Tutte le volte in cui non c'è una risposta di giustizia perché interviene la prescrizione, è evidentemente una sconfitta, non solo per noi magistrati, ma per le forze di polizia, per tutti i cittadini, per lo stesso imputato che non vede una risposta processuale di verità. Noi da tempo, ripeto, come Associazione Nazionale Magistrati chiediamo che venga riformato, rivisitato il regime della prescrizione, eliminato quello che è l'assetto che è derivato dalla legge ex Cirielli, che non a caso lo stesso proponente Cirielli rinnegò, tanto è vero appunto che si chiama ora legge ex Cirielli, una legge che ha creato ulteriori difficoltà, iniquità tra imputati e che soprattutto consente di far decorrere la prescrizione per tutta la durata dei 3 gradi di giudizio che sono previsti nel nostro processo penale. E questo, devo dire, è un'anomalia. Io voglio ricordare che la prescrizione è prevista proprio per evitare che lo Stato persegua dei reati a distanza di molto tempo quando non vi ha più interesse. Ma è evidente che nel momento in cui lo Stato ha esercitato l'azione penale, dimostra di avere un interesse, per cui non si vede perché la prescrizione debba continuare a decorrere anche durante lo svolgimento del processo, perché questa è l'anomalia, che comporta tra l'altro che chi evidentemente ritiene, in particolare l'imputato che si ritiene essere colpevole, ha tutto l'interesse ad attivare quei meccanismi, quelle tecniche dilatorie per poter arrivare alla prescrizione e sfuggire a una probabile o possibile sentenza di condanna. Carbone, è stato chiarissimo, ha voglia anche, oltre a commentare la questione della prescrizione, anche questa sentenza? No, guardi, nel merito ora aspetteremo anche le motivazioni. Oggi, come lei ricordava, la Cassazione in qualche modo ha anticipato un po' quella che è la problematica sottesa e che ha portato purtroppo a quella che, ripeto, è una sconfitta di tutti, cioè una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Quello che ci interessa, spero che le parole del Premier Renzi possano essere di buon auspicio, che ci sia stata veramente una presa di coscienza e che stavolta il nostro grido di allarme, che ripeto da tempo, come si ricordava, abbiamo avanzato proposte di riforma, questa vicenda possa aiutare questo processo riformatore, perché la prescrizione è un'assoluta priorità per riformare la giustizia, per ottenere una risposta di giustizia che tutti i cittadini ci chiedono. Maurizio Carbone, la ringrazio. Grazie, grazie, buona continuazione. Buona serata. E allora, c'è stata questa presa di coscienza da parte di Renzi, del governo, lo chiedo direttamente al sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, ringrazio di essere in collegamento anche da un po', tra l'altro. Buonasera Ferri. Grazie, buonasera a voi. Devo dire che il governo è al lavoro, l'ha annunciato anche oggi il ministro, su un disegno di legge che prevede proprio la modifica dell'istituto della prescrizione. Era già un tema in agenda per il governo, chiaramente essendo una norma di natura sostanziale va modificata, ma si potrà applicare solo dopo l'entrata in vigore per i fatti successivi all'entrata in vigore. Certo, quindi non sarà retroattiva, insomma, non potrà essere retroattiva relativa a questo processo. La Corte Costituzionale, essendo una norma di natura sostanziale, non può certo essere retroattiva. Dove far riflettere questo però su un sistema, una giustizia penale che non funziona oppure che arriva in ritardo e che comunque in questo caso non è arrivata nei tempi rapidi, anche se leggendo il comunicato del Presidente della Corte di Cassazione dell'ufficio stampa bisogna chiarire che qui c'è anche sottoso un problema giuridico e quindi è giusto rilanciare il tema della prescrizione che va affrontato. Però in questo caso sembrerebbe quasi, dalle prime dichiarazioni che ho letto dal comunicato ufficiale della Cassazione, che il momento consumativo del fatto, il disastro doloso ambientale, si sia consumato nel 1986. E quindi se quella data è quella indicata dalla Cassazione, non poteva, al momento dell'esercizio dell'azione penale il reato era già prescritto, e quindi questo deve fare un po' riflettere, perché non è un problema solo di durata del processo e quindi di durata, perché gli accertamenti sono arrivati quando il fatto era già prescritto. Anche se, mi chiedo, mi scusi sottosegretario Ferri, i magistrati hanno detto di aver valutato e applicato le leggi, ma può succedere che a volte le leggi non sono coerenti col nostro diffuso senso di giustizia, che a volte le leggi, essendo fatte da esseri umani, si possono anche cambiare, sono fallibili e quindi possono essere anche migliorabili? Ma tra l'altro voglio esprimere vicinanza e solidarietà a tutti i familiari delle vittime. Tra l'altro io ho vissuto anche a Casale Monferrato un periodo, e quindi conosco bene quella zona, quella realtà, e so quanto è sentito e preoccupa i familiari, non so il posto, che molte famiglie, quasi tutte, si sono viste, hanno visto perdere un loro caro proprio per questa patologia, e quindi c'è una voglia giustamente di giustizia. E è vero che, come diceva lei, le leggi, una riforma che va fatta, oltre a quella della prescrizione, è quella dei reati ambientali, perché il problema è che alcuni reati gravi non dovrebbero avere dei termini prescrizionali lunghissimi, perché molte volte è difficile anche accertarli. E quindi, se torniamo al caso Eternit, se il fatto, il disastro doloso ambientale si è consumato nel 1986, è chiaro che se l'azione penale viene esercitata 15 anni dopo e il reato si prescrive in 15 anni, è già prescritto nel momento in cui l'eserciti. Già. E quindi o allunghi per alcuni reati, tipo il disastro doloso ambientale, nella riforma sui reati ambientali che è ora attualmente al Senato, è previsto un aumento di pene di questi reati, che tra l'altro consente un aumento della prescrizione, sia il raddoppio dei termini prescrizionali, come c'è già prevista nel nostro codice per alcuni reati gravissimi. Quindi i reati che tutelano la pubblica incolumità, relativi a questi disastri, che davvero hanno un impatto enorme per la salute pubblica, per l'incolumità pubblica, ecco che il legislatore può intervenire. E proprio perché deve allungare i tempi? Perché a volte è difficile coglierne, anche per la tecnica scientifica, la materia, l'amianto ha tutto avuto un'evoluzione anche diciamo scientifica nel capire come potesse incidere il contatto con l'amianto nello stato della salute, quale potesse essere la patologia e anche il nesso di causalità. E quindi tutte queste tecniche anche scientifiche, progressi scientifici che si sono ottenuti magari dopo anni, quindi nell'86 era un momento in cui magari era difficile anche capire questo collegamento, si è capito negli anni successivi, e però ti vai a scontrare poi con una normativa che comunque è applicativa della certezza del diritto, che è quella attuale, che prevede appunto delle pene per il disastro doloso ambientale da 3 a 12 anni, e quindi un termine prescrizionale che è quello di 15 anni, che è un indicato, che se te valuti 15 anni ti sembra un periodo lungo, e quindi pensi, ma in 15 anni la giustizia può dare una risposta ai cittadini se uno è responsabile e quindi se deve essere condannato. E questo comporta appunto quel meccanismo che, ecco, che la legge in questo caso non riesce a cogliere questo progresso scientifico e questa difficoltà anche di accertare per questi reati lo sviluppo. Sottosegretario Ferri, mi scusi, adesso in chiusura io vorrei però chiederle una cosa, lo accennavo prima con l'esponente del segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Allora, oggi la Suprema Corte, la Cassazione, in una nota ha scritto: l'oggetto del processo di ieri era solo il disastro ambientale. Praticamente, quindi, oggi la Cassazione spiega così: l'oggetto del processo Eternit svolto mercoledì, e quindi la sentenza, era esclusivamente l'esistenza o meno del disastro ambientale, la cui sussistenza è stata affermata dalla Corte, che ha dovuto però prendere atto dell'avveduta prescrizione del reato avvenuta nel 86, come diceva ieri lei, con la chiusura degli stabilimenti. Come dire, la Cassazione quindi non si è occupata dei morti, ma del reato di disastro ambientale, quindi non poteva che prendere, dice, la decisione comunicata ieri sera. No, perché Questo dovrebbe significare, mi scusi sottosegretario, che quindi è un altro il filone che dovrebbe portare all'individuazione e alla condanna dei responsabili, quello del processo bis di cui è stata chiusa l'inchiesta oggi. Quindi, o si è sbagliato il capo di imputazione o non lo so, negli anni. Allora, se uno si legge la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino e della Corte d'Appello di Torino, comprende che sulla qualificazione giuridica c'è stato un dibattito e non è stata così univoca. Perché lei ha colto il punto, perché il pubblico ministero ha contestato all'inizio due reati: l'omissione dolosa di controlli a tutela della sicurezza dei lavoratori e il disastro doloso ambientale. In primo grado già è stato dichiarato prescritto il disastro ambientale, che era stato contestato mi pare come circostanza aggravante e non come, oppure dal pubblico ministero, che era stato ricordato, questo è un tecnicismo che non so dire. Comunque questi due tipi di reati, uno aveva detto è prescritto e per uno aveva condannato, il secondo grado ha fatto il contrario, ha detto no, quello che è stato dichiarato prescritto, che è il disastro doloso ambientale, non è prescritto e condanno, e invece dichiaro prescritto il reato e l'omissione dolosa della mancanza di conto di misura a tutela dei lavoratori. Quindi non è tutto perso, non è tutto perso, sottosegretario Ferri. Adesso vediamo da una parte dove porterà l'inchiesta della Procura di Torino e dall'altra il governo che cosa farà per quanto riguarda la prescrizione, che è una cosa diversa, ma intanto ha spinto su questa cosa a rivedere un po' questo istituto giuridico. Sottosegretario Ferri, io la ringrazio molto e le auguro allora buon lavoro anche su questo, in questo campo. Grazie. Grazie a voi, grazie. Ci fermiamo brevemente adesso ci ritroviamo tra poco su altri argomenti. Vi ricordo, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, vedo i vostri messaggi al 349-238-6666, andiamo a correre. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vedo ancora tanti messaggi vostri sul processo Eternit, sulle polemiche scoppiate sulla prescrizione, abbiamo parlato però diffusamente. Adesso cambiamo argomento, prima però vi riassumo nuovamente le notizie del giorno. Eternit, la Cassazione spiega, la sentenza non era sui morti, chiusa l'inchiesta bis a Torino, Renzi e Grasso chiedono di rivedere la prescrizione. Jobs Act, Camusso contro Renzi, Berlusconi dice non porterà un solo posto di lavoro in più. Il caso De Magistris, il sindaco di Napoli resta in carica, respinti gli appelli contro il TAR presentati da governo e associazioni. A Parma, dove c'è il presidente del Consiglio Renzi, scontri tra polizia e centri sociali. E poi lo sport, la Ferrari dà l'addio ad Alonso, arriva il tedesco Vettel. Vi dicevo dunque che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è giunto oggi in Emilia Romagna, ha fatto prima una visita a Parma anche salutando il sindaco Pizzarotti, ha avuto un faccia a faccia, poi dovrebbe raggiungere Bologna per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ma ha fatto anche un salto alla Barilla. Per noi c'è Simone Spezia, oggi si uniscono i due fusi, non fusi io e lui, nel senso fusi orari, effetto giorno, Simone Spezia tutti i giorni a luna. Ciao Simone. Ciao Roberta, buonasera. Orario inconsueto per te, ti ho trascinato la sera. Senti, Renzi nel suo solito ottimismo, nella sua vocazione innovatrice, ha detto che insomma si parla di troppe sfighe per quanto riguarda l'Italia, basta, bisogna finirla con questo. Sì, ha detto questo, ha detto anche altro. Innanzitutto è stata una giornata, tu hai citato l'Emilia Romagna, è stata una giornata fatta di 9 appuntamenti, se comprendiamo anche il comizio di questa sera, 3 a Roma, 6 in Emilia Romagna, quindi discretamente intensa come giornata. Naturalmente tutto è stato molto concentrato sul tema della riforma del mercato del lavoro e naturalmente nello sciopero dei sindacati. Accennavi nei titoli, nel riassunto delle notizie di giornata, alla Camusso che dice a Renzi vuole dialogare solamente con chi gli dà ragione. Renzi oggi è stato molto duro sul tema dello sciopero, dicendo c'è chi si inventa scioperi, c'è chi appunto va in piazza, io penso a creare lavoro, questa è la sostanza di quello che ha detto Renzi. Poi c'è stato, come si diceva, questa visita nella quale è andata nella Pizzarotti, che non appartiene al sindaco ma è un'azienda di costruzioni delle Emilia Romagna, alla Dallara, e poi appunto l'incontro con Pizzarotti, il sindaco, nella sede del comune, nella quale ha incontrato i comuni alluvionati sostanzialmente, oltre che lo stesso Pizzarotti. Naturalmente ha parlato di dissesto idrogeologico, ma ha toccato anche il tema del lavoro. Dunque possiamo sentirne un brano del suo intervento. noi siamo in un momento in cui è corretto che ci sia un dibattito fuori, che ci sia polemiche, tensioni, critica al governo, questo è tutto legittimo perché siamo in democrazia, fortunatamente, però non si deve dividere tra chi lavora. Oggi uno di un giornalista dall'Araba ha chiesto: ma lei cosa pensa qui, imprenditori contro operai, ma di che stiamo parlando? Quando poi sei in azienda, quanti sono gli imprenditori che si sono spaccati la schiena per consentire di non perdere neanche un posto di lavoro, e quanti lavoratori hanno lavorato ben oltre l'orario di lavoro indipendentemente dalla retribuzione perché l'azienda andasse avanti? Così Renzi dunque, Roberta, fammi dire, perché lui citava le tensioni, probabilmente il riferimento non era casuale, perché non è solamente allo sciopero, ma probabilmente anche alla piazza di Parma, sì, della quale parlavate nei titoli, più che scontri definirei disordini, una manifestazione dei centri sociali, hanno tentato di sfondare il cordone di polizia, la polizia ha reagito caricando e di fatto insomma a quel punto le cose si sono tranquillizzate. Parlavi delle sfighe, espressioni usata oggi dal Presidente del Consiglio, beh, sentiamo esattamente che cosa ha detto. Il racconto tipico del format televisivo è: l'Italia è un insieme di sfighe, le cose non funzionano. Viceversa, gli altri cosa rispondono? I ristoranti sono pieni, va tutto bene. No, non è così. C'è bisogno di dire con chiarezza che noi dobbiamo cambiare il nostro paese, e lo dobbiamo fare non perché ce lo chiede qualcuno dall'esterno, ma perché è giusto, perché c'è un concetto di giusto, è giusto cambiare l'Italia. E a proposito di cambiamenti, Simone Spezia, poi dopo lui è stato negli stabilimenti di Barilla, Parma appunto, per sostenere il protocollo di Milano in vista di Expo, che dovrebbe impegnare le parti che decidono di sottoscriverlo a una serie di azioni finalizzate a conseguire modelli di consumo e di produzione più sostenibili, no? A proposito di cambiamenti. Esattamente, gli obiettivi di questo protocollo sono sostanzialmente la riduzione dello spreco alimentare del 50% entro il 2020, considera che ci sono 1,3 milioni di tonnellate di cibo commestibile che vengono sprecate ogni anno, la realizzazione di un'agricoltura sostenibile, e poi due obiettivi paralleli, se vogliamo, sradicare la fame e combattere l'obesità. Dunque sentiamo il presidente di Barilla, Guido Barilla, che cosa ha detto su questo. Un accordo mondiale sul cibo darebbe oggi al nostro paese non solo il successo durante il periodo di Expo 2015, ma lascerebbe una forte eredità al mondo intero. E in questo momento di grave difficoltà economica e sociale, noi dobbiamo far leva sulle poche grandi eccellenze che il nostro Paese ha. Il protocollo di Milano riteniamo fortemente sia una grande opportunità, una grande occasione. Ed è per questo che abbiamo anche l'onere e il piacere, a nome della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, di passare il testimone al governo italiano nella persona del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che invito qui tra di noi sul palco, nella speranza che possa essere l'inizio di un lungo processo. Bene, a questo punto salutiamo Simone Spezia, che ritrovate domani come tutti i giorni alle 13 con Effetto Giorno, e passiamo invece a una serata evento, la terza edizione di Women's Circle, l'evento annuale di raccolta fondi di Oxfam Italia per celebrare il lavoro fatto con e per le donne contro la fame nel mondo, con la partecipazione straordinaria stasera a Milano di Lisa Stanfield, Dire Straits, Malika Yan. Sentiamo che cosa ha detto il direttore di Oxfam Italia, Roberto Barbieri, al microfono di Nicola Scevola. L'evento di stasera è la terza edizione Women's Circle, che sostiene la nostra campagna con le donne per vincere la fame. L'idea di The Circle è donne che usano le loro relazioni, la loro influenza per aiutare altre donne. E in questo il tema della fame è un tema centrale per noi, perché sappiamo che la produzione di cibo per il 60-80% viene dalle donne, però le donne sono quelle che poi alla fine hanno meno reddito, hanno un reddito del 10%, hanno accesso agli strumenti della produzione in maniera molto limitata, e sostenere le donne significa anche sostenere le loro famiglie e sostenere l'uscita dalla trappola della povertà. $10 in mano ad una donna sono l'equivalente di $100 in mano ad un uomo in termini di ricadute sulla comunità, ricadute per l'educazione dei figli, ricadute per la salute dei figli, e quindi è un investimento, diciamo così, sicuro, importante. Il problema ricade su tutti, sia su donne che su uomini. Il problema è che le donne però hanno molti meno diritti, pur essendo molto più impegnate in termini quotidiani di lavoro, e sono molto più responsabili rispetto alla situazione delle loro famiglie. È Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso spazio all'Europa. Europa 24 Notte. Con la nuova legislatura europea, Bruxelles torna a raccogliere gli esponenti della politica nazionale che nella loro veste di eurodeputati dovranno votare almeno il 60% delle decisioni che incidono sui diversi aspetti della nostra vita quotidiana ad oggi. Quindi iniziamo una serie di brevi interviste per sentire quali sono i temi prioritari per il loro mandato. Tocca oggi a Simona Bonafè, eurodeputata nata a Varese ed eletta nella circoscrizione del Nord-Ovest, partendo dal piano di 300 miliardi promesso dal presidente della Commissione Juncker. Certo, questi soldi ci devono essere, tra l'altro c'è l'impegno di Juncker a presentare il piano proprio al prossimo Consiglio europeo di dicembre. Io penso per esempio al campo delle infrastrutture, insomma, agli interventi per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni di nuova generazione o anche aeroporti, porti, strade, insomma in tutto questo l'interesse dei privati può essere consistente e possono portare capitali e finanziamenti interessanti. Quindi è un piano, appunto, un piano di grande slancio. Io le do qualche dato, cioè, gli investimenti pubblici nell'ultimo periodo con la crisi sono crollati, cioè, nel 2009 in tutta l'Europa si sono investiti 300 miliardi di risorse pubbliche, nel 2013 270, questo per dargli due ordini di grandezza, e se levassimo a questi denari, diciamo, le risorse della politica di coesione, avremmo cifre molto più basse, per cui tutto questo per dire che i 300 miliardi sono un buon inizio. Tutto questo per dire anche che sono una conquista importantissima della presidenza italiana, che ha puntato il dito contro il declino al quale ci stavamo condannando per le politiche di solo austerity, e sono peraltro anche uno dei due punti in base ai quali il gruppo dei socialisti democratici e il Partito Democratico hanno dato fiducia alla presidenza di Juncker. L'altro punto è la flessibilità, e insomma anche su questo ci sarebbe lungamente da discutere, perché sappiamo che oggi per i paesi che fanno le riforme, insomma, la flessibilità è una condizione importante, peraltro già prevista dal patto di stabilità, che è un patto di stabilità e crescita, e che insomma dà la condizione per i paesi che fanno le riforme di poter andare avanti, perché le riforme non sono a costo zero. Onorevole Bonafè, recentemente l'accordo USA-Cina sulle emissioni, secondo lei è davvero un passo avanti? Beh, guardi, noi aspettavamo con ansia, devo dire, questo segnale, perché l'Europa si è impegnata già subito a firmare il protocollo di Kyoto e a mettere in atto tutte le misure tese a ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, anche perché il tema dei cambiamenti climatici è un tema che abbiamo sott'occhio ogni giorno, potrei dire. Tenga presente che Cina e USA sono due potenze che molto più dell'Europa emettono emissioni di CO2 in atmosfera, sono responsabili la Cina del 29% e gli USA del 16%, noi dell'11%, giusto per dare qualche dato. Quindi bene che questo accordo peraltro avvenga alla vigilia della COP di Lima, che sarà il prossimo dicembre, e in vista dell'auspicabile accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, accordo che mi auguro possa essere vincolante e soprattutto globale, perché non è che possiamo confinare diciamo le politiche virtuose in Europa, l'atmosfera non ha confini, quindi bene che si sia arrivati a questo accordo, e soprattutto certo oggi dobbiamo anche pensare che ci possono essere politiche economiche di sviluppo più virtuose, più verdi, più green. Noi in questo campo in Europa abbiamo anche tecnologie avanzate, e un accordo fra USA e Cina potrebbe metterci in grado di competere proprio sulle tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni di CO2. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Andiamo adesso rombanti verso la Ferrari, perché c'è l'addio ufficiale. Va via uno spagnolo, arriva un tedesco, vero Dario Ricci? Sì, è proprio così, Roberta, ormai lo sanno un po' tutti, va via Alonso, arriva Vettel. E quindi che succede? Quindi cambia tutto, finisce un'era in Ferrari, 5 anni, 44 podi, 11 Gran Premi per Alonso, ma è mancato quel titolo che avrebbe consacrato quest'amore tra la rossa e l'iberico, e arriva invece Vettel dalla Red Bull, già 4 titoli mondiali in bacheca, per cercare di ripercorrere almeno in parte le orme di un altro grandissimo tedesco. È inutile dire che sto facendo riferimento a Michael Schumacher, esattamente. Come Schumacher, Vettel non vincerà subito, e speriamo che invece come Schumacher, dopo qualche stagione di rodaggio, possa tornare competitivo con una Ferrari sicuramente più competitiva di quella di quest'anno. Abbiamo anche un Aurici veggente e preveggente, dici che non vincerà subito quindi Vettel? No, assolutamente, non datemi poteri divinatori che non ho. Negli sport motoristici inevitabilmente il talento, la classe si vedono con il tempo. Sottrae mezzo secondo ai tempi sul giro, ma è la macchina che deve comunque portarti ad averle, e la Ferrari di oggi non ce l'ha e difficilmente potrà averle nel giro di pochi mesi, da qui al marzo prossimo, quando inizierà il prossimo mondiale. È più facile che possa averle nel giro magari di una stagione e mezza. Gli auguriamo buone stagioni, grazie Dario Ricci. Grazie a voi. Ciao Dario, ci sentiamo tra poco.